Lo avevamo anticipato prima, quindi manteniamo la promessa, ci colleghiamo con la Germania, in particolare con Paola Mirenda che è al telefono con noi. Buonanotte. Buonanotte anche a voi. Allora, Paola, raccontaci un po', abbiamo visto questo crollo della CDU, comunque questo calo della CDU e un'avanzata dei Verdi, come facciamo una fotografia? Allora, è vero che c'è stato un calo della CDU e c'è stata anche contemporaneamente un'avanzata dei Verdi che hanno più che raddoppiato i loro voti, in alcuni stati risultano comunque anche essere il primo partito. Quello che è più preoccupante è che non c'è una tenuta della coalizione che attualmente governa la Germania, insieme i socialdemocratici, che sono loro sì davvero veramente crollati, e la CDU mantengono una maggioranza veramente, veramente risicata. Non si parla però ovviamente di cambiare il governo qui, la coalizione resterà in governo fino al 2021. Non si parla neanche effettivamente però di cambiare all'interno dell'SPD. L'SPD ha ammesso di aver avuto un risultato terrificante, non solo il peggiore della sua storia, ma è quello che segue comunque un trend che sembra non avere fine, nonostante il cambio di leadership. Adesso c'è Andrea Nahles a guidare l'SPD, il crollo comunque, questa discesa forte c'è. Paga moltissimo il fatto che non abbiano un'identità definita, non rappresentano i giovani, c'è una discrepanza fortissima per quello che è l'ala considerata adulta, diciamo, dell'SPD, quella che è la sua area giovanile. Gli Usos, che hanno comunque delle opinioni completamente differenti, sono fortemente in contrasto con l'SPD. I Verdi prendono invece proprio quel voto che manca ai due grossi partiti tedeschi, prendono il voto dei giovani secondo i primi calcoli che vengono fatti rispetto alle indicazioni di voto, ovviamente rispetto agli exit poll. Il 33% delle persone sotto i 30 anni hanno votato per i Verdi, che è molto più di quanto fanno SPD e CDU messi insieme. Quindi hanno perso una grossa fascia d'elettorato, che è poi quella che è andata molto di più a votare in queste elezioni. L'aumento anche delle persone che sono andate al voto è un aumento dovuto alla fascia giovanile. Certo, ecco, ma i Verdi tedeschi che caratteristiche hanno? Perché abbiamo visto Verdi anche di destra, ovviamente forse non è questo il caso, però per capire un po' che tipo di proposta politica portano. Questo è un pochino quasi un mistero anche per molti che vivono qui in Germania, intanto perché c'è una differenza anche tra Land e Land, c'è una differenza all'interno delle singole città di come si muovono. Sicuramente conservano questo fatto di essere liberali in economia, e questa è la cosa che forse fa catalizzare anche un pochino un certo voto di protesta con loro, perché sono contro comunque una serie di sovvenzioni allo Stato. Hanno un programma sociale, ma questo programma sociale si esprime solo su alcune questioni e non su altre. Se prendiamo uno di quelli che è stati i grandi temi di discussione in Germania negli ultimi tempi, che era quello relativo al grosso aumento degli affitti, alla mancanza di case, i Verdi sono su una posizione assolutamente liberista e non sociale. Poi magari nelle singole città assumono, a seconda anche della coalizione di governo, che c'è posizioni diverse. Sono estremamente attenti alla questione climatica, ed è stato quello in realtà il punto su cui hanno vinto, tanto che oggi lo stesso partito dice: ok, adesso però se vogliamo diventare veramente una forza capace di governo dobbiamo anche andare un attimo di più sulle questioni sociali, che fino adesso forse sono state abbandonate. Un po' l'esatto contrario della Linke invece, che ha sottovalutato le questioni ambientali per andare molto di più verso le questioni invece sociali. Certo, ecco, Alternative für Deutschland, che prestazione ha avuto? E questo è un altro tema che andrebbe discusso un pochino in maniera più approfondita di quello che viene fatto, perché a livello nazionale, quindi del complesso della Germania, si attesta intorno al 10%, è più di quanto aveva nelle precedenti elezioni, è però meno di quello che ha avuto nelle elezioni politiche che ci sono state nel 2017, si aspettavano un risultato molto più ampio. Loro stessi ammettono che loro dicono che non sono stati capiti, che sono stati comunque penalizzati dallo scandalo che c'è stato in Austria, che ha portato alle dimissioni del governo. Però c'è un fatto, che la Germania in queste elezioni si è mostrata spaccata in due tra quella che era l'ex Repubblica Democratica di Germania, la DDR, e quella che invece era la Repubblica Federale Tedesca. Perché i cinque cosiddetti nuovi Länder, cioè cinque paesi che vengono fuori dall'ex Germania dell'Est, hanno tutti votato molto a favore di Alternative for Deutschland. I dati non sono ancora in tutti i Länder definitivi, però per quelli che abbiamo nel Brandeburgo sono il primo partito con il 20,3%, in Sassonia, che poi è la regione dove vivo io, hanno il 24,2%, sono anche qui il primo partito, sono il secondo partito in Turingia e in Sassonia-Anhalt, e sono il primo partito per il momento, ma i dati non sono definitivi, anche in Mecklenburg-Vorpommern. Dunque hanno un grossissimo risultato, ci sono regioni in cui, regioni, provincia diciamo, anche se la definizione non è esatta, in cui hanno preso anche il 40%, e questo è un dato che non può essere sottovalutato guardando soltanto il dato nazionale. A ottobre si festeggerà il trentennale della caduta del muro, e non sarà un bel festeggiare se si considera appunto quello che sono oggi questi paesi. Perché ci sono comunque anche elezioni amministrative, anche oggi c'erano voti amministrativi? Ci sono state diverse elezioni amministrative, in diversi posti si è votato, quella che è su, diciamo, a livello nazionale quella più importante ovviamente quella di Brema, perché Brema intanto è una città-stato, quindi fa land a sé stante, e qui i socialdemocratici hanno perso la predominanza dopo ben 73 anni, anche se i dati anche qui non sono ancora definitivi, per cui potrebbero esserci ancora dei cambiamenti, sono state scrutinate dappertutto prima le elezioni europee, adesso stanno scrutinando mano a mano quelle locali. Hanno perso, è stata una bella batosta, e anche qui la CDU, che è quella che vince, ha saputo fare forse un rinnovamento che l'SPD non ha saputo fare, perché il candidato principale della CDU è un uomo che fino adesso non aveva neanche fatto politica. Questa è la differenza, è una persona nuova, viene percepito come un soggetto comunque politicamente più innovativo di quanto sia invece l'SPD. Non è detto però che l'SPD non resti al governo, perché fino adesso hanno governato comunque con i Verdi la città, e la cosa più probabile è che ci possa essere un'alleanza tra Linke, SPD e Verdi. È tutto da vedere, perché i Verdi anche qui avevano detto che non avevano nessun tipo di preclusione dopo il risultato elettorale, l'unica cosa che avevano dichiarato non si sarebbero mai alleati con la destra, quindi in realtà sono pronti anche a fare un'alleanza con la CDU. Ecco, questo è un altro elemento caratterizzante dei Verdi, che non sono esattamente un partito di sinistra, non lo dichiarano. Sono un po' come i nostri vecchi socialisti, che erano pronti a allearsi sia con la sinistra che con la destra. In parte sì. Ho capito. In parte potrebbero essere considerati anche in questo modo. Ovviamente hanno delle istanze che tu giudicheresti, diciamo così, a pelle di sinistra. Se poi vai a guardare in economia, però non puoi considerarli di sinistra. È per questo che tranne l'estrema destra, per loro tutte le opzioni poi sono aperte. Ecco, ma rispetto a questo dato che si profilerebbe secondo questi elementi elettorali, rispetto alla questione del debito, a noi italiani interessa molto, a tuo parere, come sarà l'atteggiamento? Più possibilista o ancora così duro, o forse ancora più duro? Ma in realtà la questione interna proprio della Germania non cambia, quindi resta lo stesso governo e resta la stessa posizione governativa nei confronti dell'Italia. Per quello che riguarda invece quello che succede all'interno dell'Unione Europea, anche là non è che dipende tanto dal risultato dei Verdi, che sì, conquistano un po' più di seggi, ma non saranno quelli dei Verdi tedeschi a fare la differenza. Questo dipenderà poi da un complesso del voto europeo, se riuscirà a spostare gli equilibri, ma non, per adesso non ci sono ancora le condizioni perché questi equilibri vengano spostati. Di sicuro l'opinione della Germania nei confronti dell'Italia non cambia di qui ai prossimi 2 anni. Finché c'è Angela Merkel, l'opinione è quella che è fino adesso. Certo. Paola, noi ti ringraziamo. E posso darvi una buona notizia, però prima di andare via? Ci vuole. Perché anche a Lipsia, che è la città dove vivo io, e siamo in Sassonia, quindi una delle dannate regioni nere di questa nazione, si votava oggi per le comunali, e posso dire con Orgoglio mancano soltanto 8 sezioni da scrutinare, quindi siamo al 99%. La Link è il primo partito con il 29%. Tutti Lipsia. Nel mio quartiere la Link è al 40%. Ecco, no, perché queste elezioni europee ci servono anche per capire un po' dove migrare, no? A seconda del risultato. E tu Lipsia è interessante. Lipsia è interessante, allora, esatto. Lipsia è interessante, però ve lo dico, siamo circondati, siamo veramente circondati. Vabbè, è come il villaggio di Asterix. Nei paesi intorno Alternative for Deutschland ha preso il 30%, quindi non esattamente. Vabbè. Ora è sempre resistenza, Paola, come ovunque. Noi qui a Connevitz ce l'abbiamo fatta. Io ho votato per la prima volta dopo tanti anni, e ho votato quella che è un'altra esperienza interessante della Germania, che anche questa andrebbe guardata bene, perché i Verdi si raddoppiano il consenso, ma a quanto pare il Die Partei potrebbe triplicare i suoi eurodeputati, ne aveva uno solo, potrebbero arrivare a essere in tre, anche se per adesso certi sono soltanto due. Die Partei è un partito satirico, non ha niente a che vedere con i 5 Stelle, con Grillo, perché è dichiaratamente antinazista, antifascista, è satirico un po' come, diciamo, è la versione elettorale dei passafariani in termini religiosi, per capirci. Sono divertentissimi e niente, li ho votati per le europee. Si può dire il voto tanto è segreto per l'Italia, non per noi. Sì, no, ma oramai mai si può dire tutto, è già mezzanotte, è già chiuso tutto, quindi si può dire. Si può dire, ok, ho votato il Die Partei, mentre invece alle comunali ho votato la Link due volte e una volta il Die Partei, perché qui si hanno 3 voti a disposizione. Considerando che la democrazia è una cosa imperfetta, che nessun partito ti può rappresentare al 100%, tu puoi votare ben 3 partiti, o dare 3 volte il voto alla stessa persona, oppure dare il voto a 3 persone di 3 partiti diversi, insomma come ti pare, hai 3 volte la possibilità di scegliere, perché così ti senti meglio rappresentato. Va bene, è interessante, grazie mille Paola. Ciao Paola, ci sentiamo domani mattina. A domani mattina, sì. Ciao.